serata o... Sì, è vero. Ma che ore sono? Neanche le due. Ah, meglio. Così torno presto e mia madre è più tranquilla. Mamma, sono stata attenta, mamma. Quella festa c'ero, ma ho bevuto acqua, mamma. Io ballavo, poi scherzavo, cantavo, saltavo, gridavo, ma non esageravo perché poi guidavo. Le amiche mi dicevano: tienilo, avanti, bevilo. Rifiutavo sempre, non prestavo seguito. Ero orgogliosa di me stessa. Feci una promessa e la mantenni perché sono forte e so usare la testa. La festa finì presto, era freddo, era buio, pesto. Le mie amiche già ubriache, più tutto il resto, uscimmo insieme dal locale, dirette giù al parcheggio, salì in macchina e mi accorsi che qualcosa andava male. Gente che guidava in condizioni di non farlo, mani su un motorino senza riuscire a domarlo. Io ero lucida e protetta, solo che in un attimo ho capito che non sempre la fortuna è lì che aspetta. Sto chiamando, mamma, sono sull'asfalto, mamma, cosa ho fatto per meritarmi questa condanna? Guardo il cielo e piango, il dolore mi sta spaccando e la mia forza lentamente sento che mi sta lasciando. Le voci intorno a me sono così lontane, ora le immagini che metto a fuoco sono strane. Io vedo sempre più offuscato e un poliziotto dice che il ragazzo che ha causato l'incidente era ubriaco. Il sangue è dappertutto, i medici danno soccorso, corrono e mi tengono in vita, più che poco. Sono una voce spezza, sul mio viso una carezza e la frase: per questa ragazza non c'è più salvezza. Le mie amiche piangono, le speranze cadono e dall'alto sento delle voci che adesso mi chiamano. Certo non avrei creduto potesse finire, che per colpa di un altro sarei dovuto morire. Dì a mia sorella di non spaventarsi, mamma. Dì a papà di essere forti, essere forti. Doveva dire a quel ragazzo che non si deve prima, non si deve prima bere e poi guidare, e poi guidare. Forse, se gliel'avessero detto, io sarei.